in primo piano. E quello che c'è in primo piano ce lo segnala anche oggi Giulia Crivelli, giornalista del Sole 24 Ore. Buongiorno, bentornata. Buongiorno Irene. Tra l'altro il tema di cui parlerai tu, i fondi europei, si trova anche sui giornali. C'è un'intervista sulla Repubblica a un parlamentare, sull'Unità, scusate, a un parlamentare del PD che si occupa proprio di questo. Però è forse più utile una discussione più a ampio raggio, perché qui l'annuncio è che ci sarà una cabina di regia a Palazzo Chigi, però come sappiamo preferiamo vedere praticamente come si possono già fare le cose piuttosto che appunto sentire questi ennesimi annunci di cabine di regia. E poi per il resto, insomma, come vedremo, un mix di notizie economiche e non sui giornali. Grazie per questa segnalazione, ti seguiamo Giulia. Allora, dicevamo, appunto, comincio dal Sole 24 Ore oggi perché ieri c'è stata la tanto attesa riapertura della borsa di Atene. Alcuni possono pensare che sia una borsa lontana da noi o poco importante. In realtà nello scenario economico europeo, ma non solo, è veramente importante vedere come si muoveranno come si muoverà la borsa di Atene. E tra l'altro ricordiamo che se da una parte è stato raggiunto un accordo con le autorità europee, tra il governo greco e le autorità europee, resta aperta la partita con il Fondo Monetario Internazionale sul debito greco, che il Fondo Monetario Internazionale insiste per ristrutturare con l'opposizione chiarissima della Germania. E quindi vediamo il Sole 24 Ore: Atene, la borsa riapre e cade, perché è stato un vero e proprio crollo, un crollo del 16,2%, sono numeri molto rari per una giornata unica di borsa. Le banche, in particolare i titoli bancari, hanno perso quasi il doppio, il 30%. Forse la buona notizia è che non c'è stato di fatto un impatto sugli altri mercati europei. Milano, per esempio, ha guadagnato lo 0,75%. Il Sole 24 Ore però mette questa notizia insieme all'altra borsa che è molto sotto osservazione in queste settimane, ne abbiamo parlato tanto anche noi, che è quella di Shanghai, quella cinese di Shanghai. C'è un grafico in copertina che mostra l'andamento della borsa di Shanghai di ieri è ancora calata. È calato anche l'indice PMI, che dà un po' l'idea dell'attività manifatturiera in Cina. E qui il commento è di Giuliano Noci: se Pechino si scopre vulnerabile. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche un focus sul grande tema di oggi, che è quello del clima, perché ieri la stampa lo ha anticipato, l'impegno di Obama per il clima. Presidente Obama vuole utilizzare questa parte finale del suo mandato presidenziale anche per accelerare le misure anti riscaldamento globale. Le ha riannunciate ieri, ha detto: ridurremo di un terzo i gas serra entro il 2030, un obiettivo molto ambizioso. E qui l'analisi è di Jacopo Giliberto, che da noi al Sole 24 Ore è il massimo esperto di questi temi energetici ambientali. Se USA e Cina vogliono guidare le ecopolitiche, perché anche dalla Cina sono arrivate delle notizie su queste questioni energetiche. La Cina, per esempio, sì, come abbiamo anche detto ieri, ancora tantissime centrali a carbone, ha anche molto investito però in centrali in energia da fonti rinnovabili. Sul Sole 24 Ore trovate una notizia che non ha nessun altro. Ci racconta Marco Morino che ci sarebbe una marcia indietro del Milan sullo stadio del Portello. Sapete che un grande tema delle squadre, la Juventus è l'unica che per ora ci è riuscita, è quella di costruirsi un proprio stadio. Il Milan voleva farlo, aveva presentato un progetto per costruire questo stadio al Portello e lasciare così San Siro all'Inter, o forse spingere l'Inter a sua volta a costruirsene uno. In ogni caso adesso ci sarebbe questa marcia indietro, e Marco Morino appunto ci racconta: colpo di scena nella vicenda del nuovo stadio del Portello, un'area interna alla città di Milano che ospita i padiglioni della Fiera. Secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, il club rossonero non avrebbe controfirmato la lettera dell'8 luglio scorso inviata da Fondazione Fiera Milano, nella quale erano riassunti gli impegni presi dal Milan in vista della riqualificazione dell'area. Vedremo se ci saranno sviluppi oggi o nei prossimi giorni. La prima pagina del Corriere della Sera dedica a un tema completamente diverso, ed è quello sulla legge, la nuova legge sulle liberalizzazioni, che poi vuol dire concorrenza, da qui il titolo: la frenata sulla concorrenza perché è slittata l'approvazione. Oggi però ci dovrebbe essere il nuovo CDA Rai e si torna a parlare dei favoriti. Adesso vi leggerò una parte dell'articolo di Milena Gabanelli, così si scelgono i vertici della TV. Ma la fotonotizia del Corriere della Sera bellissima, perché davanti al Cremlino, quindi si vedono alcune delle cupole di quella magnifica cattedrale che è San Basilio, davanti al Cremlino, che è tra l'altro questa... davanti al Cremlino di Kazan, una prima occhiata sembra San Basilio, mi ha tratto in inganno appunto la parola Cremlino, in realtà è una delle tante cattedrali in quello stile. Questa è quella di Kazan, dove si stanno svolgendo i mondiali di nuoto, che tra l'altro è patrimonio dell'UNESCO, e la foto è quella di un tuffatore di questa nuova disciplina, che è il tuffo da 27 metri. Il tuffatore tra l'altro è un tuffatore italiano, che più che un tuffatore, come racconta lui stesso, è un volatore, perché davvero questi tuffi hanno qualcosa di magico, da vederli fotografati, ma suppongo anche vederli dal vivo. Ma vi dicevo, l'articolo di Milena Gabanelli, Così si scelgono i vertici della TV, regole e merito, appunto siamo in attesa di questi nuovi vertici della RAI. Si chiede Milena Gabanelli: chi nominerà questo super manager? Se fossimo un paese moderno, se ne occuperebbe un comitato di esperti estranei ai partiti. Invece sarà di nuovo il Presidente del Consiglio. Tutto è perduto? Non è detto, se si atterrà ai requisiti scritti sulla carta. 1. Esperienza pregressa in incarichi di analoga responsabilità nel settore pubblico o privato. 2. Autorevolezza adeguata all'incarico. 3. Assenza di conflitti di interesse. 4. Esperienza nel settore economico-industriale o nel settore di riferimento, nei quali abbia raggiunto performance positive in posizioni di responsabilità di vertice. E vedremo, insomma, quando avremo questo nome, come abbiamo visto anche ieri, circolano molti nomi, vedremo se questi requisiti di cui parla Milena Gabanelli saranno stati rispettati. La prima pagina della Repubblica ha un'apertura ancora diversa sulle dichiarazioni di ieri del ministro della Giustizia Orlando, che ha detto è forse l'ora di rivedere i meccanismi per l'immunità dei parlamentari. E naturalmente questa dichiarazione è legata agli ultimi fatti parlamentari, in particolare la vicenda del senatore Azzollini, per il quale è stato negato l'arresto dal Senato, appunto l'arresto chiesto da una procura che su alcune sue attività indaga. E questo però ha riaperto il dibattito, come abbiamo visto nei giorni scorsi, spaccato il PD al suo interno, tra chi avrebbe votato, tra l'altro è stato un voto segreto, quindi per questo usavo il condizionale, comunque ha spaccato il PD al suo interno tra chi avrebbe votato sì all'arresto e chi ha votato no all'arresto, e ora appunto questa dichiarazione del ministro Orlando. Dalla prima pagina del Messaggero, un'apertura molto simile a quella del Sole 24 Ore: Atene riparte, borsa a picco. E però la fotonotizia è dedicata al Cocorico. Ricorderete, domenica avevamo letto parte di quel reportage dalla discoteca, che mostrava come appunto il giornalista del Corriere della Sera avesse visto dall'interno quanta droga circolasse, droghe soprattutto sintetiche. Poi c'è stata ieri la notizia della chiusura per 4 mesi di questa gigantesca discoteca romagnola, e ora ci si discute molto su questo. È il modo corretto per combattere il fatto che nelle discoteche circoli molta droga, o semplicemente è un palliativo, perché in realtà la droga continuerà a circolare altrove, fuori dalle discoteche. E allora l'articolo di Antonio Galdo, Cocoricò, rivolta contro lo stop. Tra l'altro è stata anche aperta un'indagine della Finanza per invasione. Il manager della discoteca ha detto: così, con questi 4 mesi di chiusura proprio nella stagione estiva, rischiamo il crack. Vi segnalo un interessante articolo di Giuliano Da Empoli sulla prima pagina del Messaggero, che parla del Giappone. Ne abbiamo un po' parlato così, forse soltanto in occasione del ricordo di Hiroshima e Nagasaki, le due bombe che furono sganciate nell'agosto del 1945 e di fatto posero fine alla Seconda Guerra Mondiale. E ora però poi il Giappone naturalmente ha avuto la sua rinascita, e poi il suo boom economico, e poi la sua lunghissima recessione, e ora ancora una ripresa, soprattutto grazie a quelle misure economiche che vengono chiamate Abenomics dal premier Shinzo Abe. Il Giuliano Da Empoli cerca un po' di unire tutti questi temi e fare un quadro generale del Giappone oggi: il Giappone che cresce senza perdere l'identità, e però è un modello molto difficile da seguire. Lo spunto è anche naturalmente la visita del premier Renzi, che in questi giorni era proprio in Giappone per una visita di Stato ufficiale. La Stampa apre sulla notizia della RAI, anche se la fotonotizia è dedicata a Obama e al discorso che ha fatto ieri, appunto annunciando che in 15 anni c'è questo obiettivo ambizioso della riduzione di un terzo delle emissioni di anidride carbonica. E quindi il titolo invece è quello sulla RAI: oggi la RAI di Renzi, il virgolettato, voglio meno ansia e più di TV di servizio. Secondo la Stampa, il più accreditato a questo ruolo di super manager di cui parlava Milena Gabanelli Toninelli è campo dall'orto, anche se i 5 Stelle per esempio stanno premendo per portare Carlo Freccero nel CDA della RAI. Vi segnalo però dalla Stampa, alle pagine 10 e 11, è un reportage richiamato in prima pagina, un approfondimento su come nei vari paesi, perché sappiamo che ormai è una questione europea sicuramente, ma molto più che europea, come nei vari paesi in questo momento di emergenza si affronta la questione delle onde di migranti. Da Londra a Parigi, ecco le storie di chi aiuta i rifugiati. E appunto è un articolo che realizzato grazie a un reportage di 2 pagine che viene realizzato grazie al fatto che la Stampa ha unito le forze con altri quotidiani europei, nella fattispecie il Guardian negli Stati Uniti e il País in Spagna e Le Monde in Francia, e così ci racconta 4 storie. Molto interessante per capire sia le difficoltà di tutti questi migranti, le difficoltà di chi li deve accogliere e le paure dei cittadini dei vari paesi. L'unità via col vento, questo è il titolo dell'unità di oggi, che dovrebbe essere evocativo dell'annuncio di Obama, perché infatti poi subito sotto spiega l'unità: Obama, clima, prima minaccia per il futuro, entro il 2030 via il 32% dei gas serra. La fotonotizia diversa, una sorta di pensiero laterale, ma comunque una buona notizia, cioè che a Pompei ha riaperto la Palestra Grande, dopo 7 anni di restauri è appunto stata riaperta questa parte degli scavi di Pompei. L'unità pubblica uno stralcio del discorso che ha fatto ieri Obama, quindi per l'America è tempo di agire, e all'interno poi si parla anche di come l'Italia sia in questa green economy, che non vuol dire soltanto naturalmente aziende che tagliano i gas serra, ma aziende che operano nella green economy in tanti altri modi. Secondo i dati dell'unità, la green economy made in Italy coinvolge il 33% delle imprese in tutti i settori. L'Avvenire apre in un certo senso sulla questione del clima, ma la allarga, perché è soltanto uno degli obiettivi dell'ONU, quello di migliorare la situazione del climatica del pianeta, e quindi l'Avvenire scrive: sviluppo, l'ONU si ridà gli obiettivi, lotta alla fame, difesa dell'uomo e dell'ambiente, 17 impegni per cambiare nella nuova carta degli intenti delle Nazioni Unite verso, anche in questo caso, il 2030, questo obiettivo di medio termine di 15 anni che si danno tutti, e appunto speriamo che sia sufficiente per raggiungere questi obiettivi molto ambiziosi che si sono dati sia l'ONU che Obama. E l'Avvenire poi spiega anche che lo abbiamo sentito anche nei GR e nei telegiornali, che Obama ha citato anche l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco per parlare appunto del rispetto per l'ambiente e dell'importanza di lasciare ai nostri figli, nipoti, pronipoti un pianeta ancora in buona salute. Libero ritorna sulla questione del Sud, e il titolo molto polemico è: Renzi fa il ministero allo spreco. Sapete che dopo il rapporto Svimez, che ha indicato ancora una volta le enormi differenze di sviluppo economico tra Sud e Nord, c'è stata una proposta di ristanziare molti fondi per il Sud, creare una sorta, una volta c'era, di ministero per il Mezzogiorno, ma comunque una task force, e secondo Libero appunto sarebbe uno spreco. È una ricetta già fallita in passato, e c'è chi contesta la stessa emergenza dicendo che i dati non sono veritieri. Sapete che c'è stato anche un botta e risposta tra lo scrittore Roberto Saviano, che in una lettera aperta al Premier ha detto occupatevi dell'emergenza Sud, talmente disperata la situazione economica che nemmeno le mafie riescono più a fare affari al Sud e migrano altrove, e Renzi ha risposto senza mezzi termini dicendo: certo, noi dobbiamo occuparci del Sud, il governo lo farà, però basta con i piagnistei, questa è la parola. Anche il Giornale si dedica alla questione del Sud, anche qui un titolo abbastanza polemico: Renzi Sud, la guerra incivile, dopo le offese del Premier, la verità sui 400 miliardi già investiti sul Meridione, tartassati e privilegiati, ecco chi paga e chi incassa dallo Stato. Ci lasciamo però un attimo, ci ritroviamo subito dopo per altri titoli e altri approfondimenti. In primo piano, Ancora buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali che abbiamo visto oggi hanno aperture diverse, alcuni economiche, alcuni scelgono di concentrarsi sulla decisione che dovrebbe arrivare oggi sul nuovo CDA della RAI. Ma vediamo il Fatto Quotidiano che ha un'apertura ancora diversa, sceglie di concentrarsi sugli arresti di ieri. Sono stati arrestati 11 fedelissimi di uno dei grandi boss mafiosi rimasti Messina Denaro, quello che viene fuori dalle carte delle indagini ed è il virgolettato scelto dal Fatto Quotidiano: Messina Denaro è protetto ad altissimi livelli del potere. Quindi torna la questione dei legami tra la mafia e la politica, o in generale le istituzioni, o comunque appunto quelli che vengono definiti gli altissimi livelli di potere. Molti gli approfondimenti, anche perché per il Fatto lavorano molti giornalisti che anche in passato si sono occupati di questioni giudiziarie e mafiose, a partire da Marco Travaglio naturalmente, che però oggi dedica il suo editoriale a prendersi un po' gioco di quel reportage che abbiamo visto qualche giorno fa sull'Unità, due pagine in cui il direttore dell'Unità, Erasmo D'Angelis, seguiva il ministro Maria Elena Boschi alle feste dell'Unità. Tra l'altro una scelta così editoriale che è stata criticata proprio ieri, anche questo lo abbiamo citato, sull'Unità da Massimo Mucchetti, che è un senatore del PD ma è anche una delle voci più critiche interne al PD. Insomma, è un lunghissimo editoriale tutto dedicato a questa vicenda, un grande sfoggio di ironia, forse fin troppa, perché insomma sì, certo era un reportage che colpiva, però insomma forse non merita tutta questa ironia. Ma sul Cocoricò invece interviene Selvaggia Lucarelli, che da qualche mese è collaboratrice del Fatto Quotidiano. A che serve chiudere il Cocoricò? Toppe e buchi, i sigilli alla discoteca e i sonni tranquilli degli spacciatori. Come dicevamo, insomma, bisogna chiedersi se questi provvedimenti, anche se lo ricordiamo, è stato preso anche perché il 19 di luglio è morto un ragazzo di 16 anni per aver preso troppa ecstasy, quindi il provvedimento è legato a quello, però c'è da chiedersi se appunto sia il modo giusto per affrontare questa emergenza droghe sintetiche nelle discoteche. Il Manifesto ha un titolo che richiama, il titolo esatto è Il bagaglio umano, richiama alla quella vicenda tremenda di ieri di un giovane migrante marocchino che è morto soffocato nel bagagliaio di un'auto sul traghetto per la Spagna, quindi mentre tentava di superare una delle tante frontiere blindate dell'Europa, che è quella di Melilla, ed era chiuso in una valigia. E il Manifesto dedica poi tutta la pagina 6 al bollettino sui migranti di ieri, perché oltre a questo fatto di cronaca c'è poi il fatto che a Calais continuano a essere respinti i profughi, e Londra ha annunciato questa misura molto dura di Cameron che prevede l'arresto per chi affitta ai clandestini, sapendo appunto che sono clandestini. Tra l'altro, invece, ancora, sempre a proposito del bollettino, potremmo dire proprio il bollettino di guerra di ieri, per quanto riguarda la migrazione, a Palermo sono state trovate 5 morti nell'ennesimo barcone che è arrivato appunto sulle coste siciliane. Vi segnalo un intervento di Stefano Fassina, ex deputato del PD, sapete, uno dei all'inizio è stato anche sottosegretario al lavoro nel governo Letta, poi è entrato in rotta di collisione con Matteo Renzi e alla fine è uscito dal PD. Il suo intervento è c'è una partita da riaprire, c'è vita a sinistra, e prende spunto da un editoriale di Norma Rangeri sul Manifesto di qualche giorno fa. Inizia in prima pagina e continua a pagina 15. Io vi assicuro che l'ultima parte non l'ho capita, però magari è colpa mia. Ve la leggo, perché la questione è appunto c'è vita a sinistra. Un altro accenno: una discussione sul problema teorico-politico del governo oggi, anch'essa utile a mio avviso al percorso di riflessione e di proposte promosso dal Manifesto e dalla sua direttora, dovrebbe misurarsi con la dialettica alto-basso, in cui tende a trasfigurarsi oggi la lotta di classe, e con quella che Laclau chiama la ragione populista e che trova in America Latina delle peculiarissime declinazioni. Come è stato osservato, Podemos in Spagna si pone il compito di inventare politicamente il popolo attraverso un dispositivo del governo capace di svolgere una funzione universale. Insomma, sì, c'è vita a sinistra, soprattutto se la sinistra, lottando contro la condanna alla frammentazione, contribuendo a costruire processi e movimenti di lotta, vertenze, conflitti, rende almeno visibile un'alternativa alla gabbia del governo, inteso come pura condanna a un governo nella gabbia. Io vi assicuro non ho capito, tranne questo accenno alla condanna alla frammentazione, di cui tra l'altro Fassina, fino a prova contraria, è protagonista, perché il PD si sta frammentando anche per le prese di posizioni come la sua. Comunque l'editoriale completo lo trovate sul Manifesto, inizia a pagina 1, continua a pagina 15. Vi segnalo la prima pagina del secolo XIX, l'apertura è sulla sanità e sui tagli, perché ne abbiamo parlato tanto, ci sono le prime conseguenze, le prime si concretizza appunto come verranno fatti questi tagli, che da 10 miliardi annunciati all'inizio sono comunque stati già approvati per 2,3, ma c'è una fotonotizia di una storia che viene dal Messico. Ieri Irene in Spunti di Vista ha parlato della legalizzazione del traffico della droga come possibile strada per combattere tutta la criminalità organizzata, e in particolare i narcos messicani e sudamericani in generale, che dalla droga traggono le loro immense ricchezze. Quindi a parte questa faccia del Messico, questa faccia sicuramente negativa, questo aspetto negativo che rende la vita di molti messicani difficilissima, c'è questa storia bella che viene dal Messico. Il secolo XIX pubblica questa foto del quartiere povero di Las Palmitas a Pachuca in Messico, dove un gruppo di artisti ha dipinto tutte le case in modo molto colorato, e quindi quella che il secolo XIX definisce la rivoluzione arcobaleno. Ci sono proprio le due foto, prima e dopo, sicuramente un piccolo gesto, un gesto simbolico, però forse, anzi secondo il reportage del secolo XIX, qualcosa che ha cambiato la vita di un paese. E poi quell'altra terribile storia di cronaca, la cito dal secolo XIX perché è avvenuta in un quartiere di Genova, questa banda di bulli che ha ridotto in coma un ragazzo su un autobus, accusandolo di essere gay e di aver guardato in modo appunto inappropriato, secondo loro, un ragazzo, da gay aver guardato un ragazzo. Qui è stata, pensate, una ragazza a dire non guardare così il mio fidanzato, e a scatenare la violenza di altri sei che erano con lei, che hanno appunto ridotto in coma quest'altro giovane. La Gazzetta dello Sport torna sul Milan, ma qui non per questione di stadio, ma di nuovo per questione di mercato. Ieri infatti Mihajlovic, il tecnico, ha detto effettivamente se arrivasse Ibrahimovic, che attualmente è ancora del Paris Saint-Germain e non si capisce bene che intenzioni abbia lui o il suo procuratore o il Paris Saint-Germain o il Milan, perché magari basterebbe una gigantesca offerta per convincerlo. In ogni caso, con Ibra il Milan sarebbe da scudetto, questo ha dichiarato ieri Mihajlovic. Passiamo alle pagine interne, e abbiamo parlato tantissimo della Grecia, e oggi sul Sole 24 Ore trovate gli approfondimenti su quello che è successo ieri alla borsa. Abbiamo visto ha perso il 16% e gli istituti di credito, a pagina 3 trovate proprio le diverse perdite, sono arrivate a perdere il 30%. E tra l'altro nello schema del pezzo che scrive Vittorio Darold si vede anche quanto sia gli attivi e i passivi di queste banche, cioè quanto grave sia la situazione di questi istituti di credito al di là dell'andamento in borsa di ieri. Ma la notizia che trovate a pagina 3 è quella del default di Porto Rico. Porto Rico, sapete, aveva dei problemi economici da moltissimo tempo, si doveva decidere se intervenire, però Porto Rico è territorio americano, anche se non è il 51esimo stato, ma è una sorta di protettorato, fa parte del cosiddetto Commonwealth degli Stati Uniti. L'FMI non può intervenire proprio perché è territorio americano, è una quella che Roberto Darin definisce una complicazione tecnica. L'isola ha un debito di 70 miliardi e quindi è l'ora X, default anche a Porto Rico. E su questa questione della possibilità che paesi o città, in America è successo con Detroit, o stati di uno stato federale, in America è successo con la California, o anche singole persone, in America esiste la bancarotta personale, persino è toccato nel 1991 persino a Donald Trump, che ora ha un patrimonio personale di 10 miliardi. Si tratta appunto di dichiarare bancarotta e in un certo senso avere la possibilità di ripartire da zero per un accordo con i creditori. E allora Roberto Darin appunto ci racconta Porto Rico in default. La quiebra, default in spagnolo, è di 58 milioni di dollari. Non tanto, per la verità, una cifra che Jennifer Lopez, con un beau geste rivolto al suo paese d'origine, potrebbe tranquillamente sborsare a beneficio dei concittadini dei suoi avi. Sapete che Jennifer Lopez, la cantante, attrice, showgirl, è originaria di Porto Rico. Non lo farà, naturalmente. Chissà, forse si limiterà a cantare Waiting for Tonight. Un auspicio per una soluzione che per ora non si intravede. Ieri è scattato il cartellino rosso delle agenzie di rating e i mercati finanziari e i 3,6 milioni di abitanti dell'isola entrano in un limbo di incertezza che condurrà molto probabilmente, udite udite, a un piano di austerità anche per loro. Dalle pagine interne del Sole 24 Ore vi segnalo un approfondimento su Expo. Si è parlato tanto di quanti sono gli ingressi, quanti sono i biglietti venduti, i tornelli funzionano, sì no. Qui c'è un aspetto diverso che ci racconta Giovanna Mancini, un primo bilancio su tutti gli incontri d'affari che ci sono stati, e sono già stati 20.000. Oltre 10.000 solo quelli gestiti da Promos, che è l'agenzia della Camera di Commercio di Milano per appunto la promozione delle aziende, e una prima stima del business generato per le PMI è di 28 milioni. Poi naturalmente ci sono altri approfondimenti e l'analisi di Lello Naso, che è responsabile delle pagine di Imprese e Territori, nel centro di gravità della migliore manifattura. E quindi, come dice anche spesso Rocca, che è il presidente di Assolombarda, considerare veramente l'Expo come la capitale di quella macro regione che ruota intorno a Milano e che sicuramente è una vetrina per tantissime eccellenze industriali ma anche dei servizi. Se visti questi dati appunto sugli incontri di business, pare che l'Expo stia funzionando non solo come la grande esposizione universale che apre le finestre su tanti mondi diversi, ma anche appunto come occasione per incontri di business, soprattutto, lo ricordiamo sempre, per le piccole e medie imprese, perché le grandi riescono a organizzarsi da sole per l'internazionalizzazione, più difficile naturalmente per le piccole. La prima pagina di Finanze e Mercati è dedicata alla grande notizia finanziaria di ieri, cioè che Exor, la finanziaria degli Elkan, ha conquistato Partner Re, che è un colosso della riassicurazione, un'offerta da 6,9 miliardi di dollari che porterà a un colosso appunto del settore. Un'intervista anche di Laura Serafini a Laura Todini, che è presidente di Poste, che spiega che tra fine ottobre e inizio novembre ci potrebbe essere la IPO, l'Initial Public Offering, cioè lo sbarco delle Poste in borsa. Ma veniamo all'iniziativa che sappiamo è iniziata ieri e però prosegue per tutto agosto, e in questa prima settimana è dedicata alla casa e condominio, che è la guida pratica per la famiglia del Sole 24 Ore. Come dicevamo appunto, la prima settimana è tutta dedicata a questi temi, casa e famiglia. In particolare, per quanto riguarda la casa, oggi Emiliano Sgambato, che è un nostro collega della redazione di Casa 24, ci racconta queste vendite che, come avete sentito anche nel GR, in realtà le vendite di case non decollano, nonostante si pensasse che magari in questo 2015 si potessero riprendere, quindi tutti gli effetti sugli acquisti e sui mutui. E per quanto riguarda invece il condominio, ancora sul ruolo dell'amministratore e su quei temi che sono i preventivi, la reperibilità e la formazione per una figura come quella dell'amministratore, che deve essere un professionista a tutti gli effetti. Sul tema del cocoricò, dalle pagine interne del Corriere della Sera, richiamato in prima pagina sul Corriere, l'articolo di Beppe Severnini, che magari leggeremo subito dopo la pausa per il traffico, mentre dalle pagine interne della Repubblica altri approfondimenti, in particolare uno sul Brasile, che è un altro paese che sembrava destinato a una grande corsa economica, in realtà adesso sta rallentando. Ma vediamo questi due approfondimenti subito dopo la pausa per il traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buon martedì 4 agosto da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine interne dei quotidiani e vi segnalavo l'intervento di Beppe Severnini sulla questione del Cocoricò, la gigantesca discoteca chiusa per 4 mesi dopo che il 19 luglio scorso è morto un ragazzo di 16 anni per aver ingerito troppe pasticche di ecstasy che aveva comprato proprio in discoteca. Il titolo: non si può sballare con il permesso del questore. Vi leggo questa parte che mi ha fatto molto effetto. Si chiede Beppe Severnini: intendono collaborare gestori e titolari? Beppe Riboli, uno dei più noti progettisti di locali notturni, spiegava al Corriere nel 2012: le discoteche sono arredate anche per il tipo di stupefacenti che si consumano. Gli enormi stanzoni neri per l'ecstasy hanno lasciato il posto al privé della cocaina, con pista da ballo piccolissima e tanto colore bianco. Oggi dice, a proposito del Cocoricò, se fai un club così, enorme, psichedelico, zero arredi, se offri musica così, hardcore, techno, trance, se la mandi a 120 decibel, un aereo al decollo, se hai un parco luci così, strobo da 5000 watt, teste mobili, accecatori, video LED, non c'è verso. Per essere normale, devi essere sballato. Una novità per gli addetti ai lavori? Qualcuno leggendo dirà: non fate gli ipocriti, voi giornalisti, voi genitori, voi educatori, voi adulti. Cosa credete che girasse ai vostri tempi nei concerti rock o nelle cantine dei punk? Incensi e camomilla? Risposta: giravano alcol e droghe anche allora, ma in quantità e con modalità diverse. Chi ne faceva uso aveva le sue colpe, spesso pagate a caro prezzo, ma almeno ci risparmiava il perbenismo della trasgressione. I nuovi, giovanissimi trasgressori vogliono sballare col permesso del questore. Francamente è troppo. Ma vi dicevo, dalle pagine interne della Repubblica, l'approfondimento sul Brasile, Brasile che tra l'altro tra poco meno di un anno ospiterà le Olimpiadi. Forse per le Olimpiadi è pronto, forse no. Il fatto è che appunto Federico Rampini ci racconta: il Brasile era il primo del club dei BRICS, i paesi emergenti, poi il ciclo economico si è invertito. Meno investimenti dall'estero, export di petrolio in calo e una classe dirigente rapace che ha preso il sopravvento. E quindi anche sulle Olimpiadi purtroppo ci sono, di fatto, ci racconta Rampini, ritardi, proteste e tangenti. E tutto sembra girare storto anche in vista delle Olimpiadi. Si pensava appunto che tra i mondiali di calcio e le Olimpiadi ci fosse questo grande volano economico per il Brasile. Purtroppo non è così, e questo si riflette anche, ci racconta Rampini, sui consensi del presidente Dilma Rousseff, che è sceso negli ultimi mesi dell'8%. A proposito di inchieste, Ottavio Lucarelli ci racconta una vicenda che a tratti, a intermittenza abbiamo sentito raccontare spesso, che è quella della grande acciaieria di Napoli di Bagnoli, che è stata chiusa nel 1992. L'allora sindaco Bassolino voleva trasformarla in polmone turistico, ma è diventato un buco nero che ha inghiottito centinaia di milioni. Ora il governo vuole un commissario, sindaco e regione sono contrari. Inchieste, furti e fallimenti, Bagnoli muore da 20 anni, quindi un altro tradimento operato nei confronti del sud, ma forse anche dal sud stesso, perché ci saranno sicuramente delle responsabilità locali oltre che nazionali, come ci racconta questo approfondimento di Repubblica. Abbiamo accennato ai tagli della sanità oggi, ma ne abbiamo parlato perché il secolo XIX si concentra su quelli che avranno effetto in Liguria. Sapete che poi la spesa per la sanità è decisa anche a livello regionale, quindi ci sono gli stanziamenti centrali, però poi sono le regioni che decidono come gestire, quanto spendere per la sanità. Quindi il secolo XIX allarmato per la situazione in Liguria, ma la Repubblica invece ci racconta la storia di un ammalato di epatite C, io costretto ad andare in India per il farmaco che mi salverà. I farmaci per l'epatite C sono tra i più cari in assoluto, in Italia costano sul tariffario 74.000 euro, ma a Bangalore costano 700. Da Trento questo malato è partito appunto per l'India e lì si sta curando. È una storia, una singola storia naturalmente, però spiega come anche il meccanismo di assegnazione, diciamo il ticket o comunque il dare dei farmaci o con un piccolo ticket o gratuitamente dei farmaci che in realtà hanno un costo molto elevato, è una delle questioni su cui naturalmente ruotano i risparmi, ma anche l'efficienza e la riforma della sanità. Si rischia naturalmente di tagliare i farmaci anche a chi veramente o il farmaco lo ha gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale o non può guarire da una malattia potenzialmente mortale come l'epatite C. Vi segnalo, a proposito di stanziamenti e di soldi che speriamo verranno spesi bene, il Messaggero che ricorda il giubileo, di cui adesso non si parla più perché si ha quasi paura di parlare di questo grande evento che non è come quello del 2000, però è comunque un giubileo, e il Messaggero ci racconta: in arrivo 400 milioni dal governo, via libera da Palazzo Chigi per lo sblocco dei fondi, consentito al comune di sfondare i limiti del patto di stabilità. Il Premier però, racconta il Messaggero, attende il dettaglio dei progetti e degli interventi. I cantieri dovranno essere strettamente connessi all'evento. dall'Avvenire, che come sapete io segnalo sempre, anche perché riesce a stupirmi tutti i giorni con notizie che magari altri giornali ignorano, o proprio va a scovare delle storie appunto ignorate da tanti altri quotidiani. Oggi per esempio ci racconta la popilia, che è un nuovo parassita dopo quella la tremenda xylella che ha attaccato soprattutto in Puglia gli olivi, e questo è un altro coleottero che minaccia le colture, e quindi l'allarme di molti agronomi: bisogna agire subito. Questa popilia aggredisce il fogliame di alberi, vivai, prati e cereali, risparmia solo le radici di cui si nutrono le larve. Il focolaio è una delle aree agricole più importanti del paese, al nord, e l'Italia è di nuovo osservata speciale dall'Europa. Una notizia che viene dalla Siria, ce l'hanno anche altri giornali ma non con questa enfasi e questo approfondimento. Obama, presidente Obama, oltre a occuparsi di clima, ieri si è occupato anche di guerra e ha detto sì ai raid sulla Siria in difesa dei ribelli anti Stato Islamico. I caccia quindi sono in azione, anche se a colpire poi tecnicamente è Assad. Mosca non ha naturalmente trascurato questa notizia e ha subito reagito: così si fa il gioco dei terroristi. Quindi quest'altro scacchiere di guerra di cui, a proposito di intermittenza, ci occupiamo appunto un giorno sì e molti giorni no, però continuano naturalmente le notizie, ci sono, la situazione è in costante cambiamento e forse andrebbe raccontata meglio ogni giorno. L'Avvenire, devo dire, sulla Siria ha sempre un aggiornamento tutti i giorni. Parlavamo del narcotraffico, dei narcos del Messico, anche l'Unità oggi torna su questo argomento. Messico, fossa comune della libertà, trovate all'interno dell'Unità un estratto del libro Narcoguerra, cronache dal Messico dei cartelli della droga, del reporter Fabrizio Lorusso, che ci racconta appunto come di questa guerra tra narcotrafficanti, tra loro in guerra e in guerra naturalmente con il governo messicano, facciano le spese anche moltissimi cittadini comuni. Vi cito una notizia che, non so, io nella mia ignoranza, ma ovviamente non, mi autoassolvo, nel senso che le notizie effettivamente sono tantissime tutti i giorni, non riesco a tenerle sotto controllo tutte, però questa veramente mi era sfuggita, ma la trovo molto importante, soprattutto in un momento in cui continuiamo a parlare di migranti e di immigrazione. Oggi c'è un primo voto alla Commissione Affari Costituzionali sulla legge sullo ius soli, cioè il diritto, letteralmente il diritto al suolo, cioè con cui giuridicamente si definisce la possibilità che se si nasce in Italia si abbia automaticamente per esempio la cittadinanza o addirittura la nazionalità. E allora questo primo voto alla Commissione alla Camera se ne occupa il Secolo XIX e ci spiega appunto quali potrebbero essere le nuove regole sulla cittadinanza, anche se la legge è solo all'inizio del suo percorso. Studio, permessi, sport, tutti gli ostacoli che sparirebbero se un giovane di seconda generazione fosse già italiano. E la foto è quella di una squadra di calcio di extracomunitari che gioca appunto a Genova. Un altro reportage, questa volta dal Manifesto, dalla California, che sapete quasi tutte le estati è colpita da violentissimi incendi. Quest'anno la situazione è ancora più grave perché prima degli incendi c'è stata una grande siccità, forse lo ricorderete, anche col razionamento dell'acqua, con la proibizione per esempio di usare l'acqua per innaffiare i giardini, persino a Beverly Hills. E allora Luca Celada è andato in California e ci racconta questo furore nella siccità della California. Da Libero vi segnalo una pagina di Marcello De Angelis su come si possono ora fare affari con Teheran. Sapete che è stato siglato questo accordo che mette fine alle sanzioni economiche, soprattutto quelle imposte dagli Stati Uniti all'Iran. L'Iran è un paese enorme, con tantissime risorse, prima di tutto petrolifere ma anche di altro tipo, una popolazione molto giovane, molto dinamica, e allora ci spiega il reportage, potrebbe questa nuova era di Teheran potrebbe portare alle aziende italiane, potrebbe portare 1 miliardo l'anno. Cina, India, USA e Germania sono avanti, agli iraniani noi piacciamo, secondo il giornalista di Libero. I settori caldi oltre al petrolio sono auto, banche, high tech, e per le start-up tra l'altro ci sono degli interessanti incentivi fiscali, 15 anni senza tasse. Quindi questo tema, insomma, questo strumento che si è dimostrato in tantissimi paesi, pensate all'Irlanda, a quanto ha usato gli incentivi fiscali per portare multinazionali sul suo territorio, funziona. E con questo però io vorrei ridare la parola a Irene, che ci dà qualche anticipazione sui suoi spunti di vista che avrete tra poco. E alcuni li attingiamo proprio dalla tua rassegna stampa, che io ascolto fino all'ultimo. Non avevo mai sentito quello qualcuno dire non ho capito un articolo. È bellissimo, ho cercato di ascoltarti mentre leggevi questo articolo e non capivi perché... Poi io spiego io, no? Non ho capito niente. Un po' di SMS. E che dicono? Che dicono? C'è Andrea, per esempio, che dice: dalla lettura del tuo articolo si capisce che la sinistra è spacciata. Fassina è, insomma, uno anche a suo modo coerente, secondo me, però vi assicuro, io l'ho letto due volte e non sono riuscita a capirlo. Poi ci metteremo lì, faremo un gruppo di studio nel pomeriggio. Noi invece nel corso della mattinata torneremo a parlare di temi che in questi giorni sono stati affrontati anche dai giornali, come i fondi strutturali europei ideati per sostenere la crescita delle aree più deboli, perché non riusciamo a spenderli, e in seguito lo zapping degli intellettuali è stato definito, l'indignazione usa e getta, ci innamoriamo di un problema e poi lo dimentichiamo. Giulia, appuntamento a domani, grazie per il tuo tempo, e noi diamo subito la linea al GR e torniamo poi.